ci muoviamo con perfetto sincronismo, figurazioni, rovesci e poi caschetti. Questa forza che si chiama magnetismo, ti sento attratto ed io mi attraggo a te. Tu non mi parli, però mi sintonizzo sulle frequenze che partono da te. Con il mio istinto pian piano recepisco, dolci segnali per stare mandando a me. Agganciati in questo tango, come un naso nel bottone, questo tango mascalzone e compassi da soffione mi trascino verso te. La tua mano sulla schiena sta dicendo andiamo via, questa sera sono in vena per iniziare una follia. Sono nervosa, mi sento elettrizzata e do la colpa al solito caffè. Invece questa serata indovinata che fa fluire il sangue dentro me. Ti prego amore, 5 minuti ancora, ancora un tango e un ultimo caffè. Mi sta dicendo l'istinto mio di donna che domattina mi sveglierò con te. Agganciati in questo tango, come un raso da un bottone, questo tango mascalzone che con passi da soffione mi trascina verso te. La tua mano sulla schiena sta dicendo andiamo via, questa sera sono in pena, rinunciare a una follia. Agganciati in questo tango, come un naso e un bottone, questo tango mascalzone e compassi da sognone mi trascina verso te. La tua mano sulla schiena sta dicendo andiamo via, questa sera sono in vena, cominciare la follia.